ricordi dopo le piogge estive che ci zuppavano durante le corse, nei campi di grano maturo, alla deriva fuori città, mentre il sole asciugava le nuvole, profondamente assenti, danzando il gioco innato di simulare il carro nei vortici suadenti di un giro giro il mondo per spezzare ogni peso, un volo simulato. Attraversato il cielo la sera da piccole luci, e il mondo conosciuto sembrava sconfinato, gigante l'orizzonte di forme saturato, un piccolo creato, ed era facile sognare d'amore quando altro non si aveva da fare, quando bastava la tua sola presenza a farmi battere il cuore.